24 mattino. Voglio trovare un senso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Ed è il 17 agosto, è lunedì, e vogliamo cercare oggi insieme di capire questo fenomeno della crescita di modelli di consumo giovanili finalizzati allo sballo. Stiamo parlando di alcol, partendo certo anche dai dati tecnici, anche dai divieti, anche dalle leggi dello Stato oppure delle amministrazioni, delle singole amministrazioni, per proibire il consumo e capire se questa è la risposta che si dovrebbe dare. Dunque ringrazio i miei ospiti. Naturalmente con noi c'è anche Pupi Avatim, regista, autore, clarinettista. Buongiorno, buongiorno Pupi Avatim. Buongiorno, buongiorno a lei. E vorremmo parlare con lei non tanto soltanto per la sua opera. Naturalmente ha ottenuto David di Donatello, Nastri d'Argento, riconoscimenti, è un autore con la maglia. Concentriamoci invece sugli amici del bar Margherita, perché nel suo film Pupi Avatim c'è questo diciottenne che sogna di poter diventare un giorno un frequentatore di questo bar, del bar Margherita, e ci è piaciuta questa figura perché questa voglia di far parte di quel mondo da bar in realtà ha poco a che vedere con il consumo d'alcol. Perché? Sì, in realtà io ho raccontato una generazione che, anche se risale soltanto a mezzo secolo fa, 50 anni fa, perché il mio film è contestualizzato nel 54, quindi 55 anni fa, in realtà sembra di raccontare un'epoca alto medievale, perché quei giovani là, ecco, hanno una distanza nei riguardi dei giovani del resto che è assolutamente comportamentale, che è assolutamente abissale. In che senso? Che erano giovani, nel senso che erano giovani che non contavano nulla. Era un'epoca della storia della nostra società in cui i ragazzi, essere giovani, non si contava nulla. E io l'ho vissuta e ne sono testimone attento, e quindi ho voluto in qualche modo testimoniarla in un'epoca nella quale il presente invece essere giovani conta tantissimo. E in che modo? I giovani oggi sono l'interfaccia di qualunque tipo di proposta. Cioè, se non piace ai giovani non ci sei, non esisti. Ma non parlo solo cinematograficamente. Il mercato guarda esclusivamente ai giovani. Qualunque trasmissione televisiva, qualunque cosa, deve piacere necessariamente ai giovani, illudendo questi poveri ragazzi, perché poi è illusoria questa cosa che contino così tanto, di essere veramente l'ago della bilancia. Quanti invece noi sappiamo benissimo che non lo sono, perché la globalizzazione ha fatto sì che i loro gusti e le loro scelte siano assolutamente diventate uniformi. Cioè non rappresentino mai delle scelte individuali, in qualche modo alternative. E per i giovani oggi vuol dire attenersi a dei comportamenti che sono in qualche modo legiferati soprattutto appunto dal mercato, e che hanno una difficoltà molto forte. Noi adesso affrontavo il tema dello sballo, della movida, del bere, del cercare in qualche modo risarcimento attraverso queste forme supplettive al fatto che li abbiamo in qualche modo privati poi di che cosa? Di quella che dovrebbe essere l'alimento essenziale, il concime, cioè essenziale di ogni adolescenza, di ogni giovinezza, che è l'aspettativa, che è il sogno, che è l'attesa di qualche cosa dalla vita. La prospettiva, il sognare il futuro. La prospettiva. Pupi Avatim. Pupi Avati, grazie per questa lettura, perché tra l'altro stamattina ascoltavamo, noi intervistiamo sempre dei corrispondenti stranieri per vedere alle 7:15 del mattino come vedono l'Italia, e questo irlandese che vive da 20 anni in Italia, è il corrispondente dell'Irish Times da Roma, diceva ancora una volta, e non è il primo, che ciò che lo colpisce è la preparazione, perché è innegabile, dei giovani italiani che però non credono in se stessi, sono già rassegnati, non vedono un futuro, non sono anche aggressivi nel senso inglese nelle proposte, perché non capiscono bene cosa riserverà loro dietro l'angolo. Nel suo film, sembra, lei l'ha ambientato nel 1954, sembra che comunque ci fosse uno spartiacque drammatico, forte, come la guerra, cioè c'era la vita prima della guerra e dopo la guerra era quasi obbligatorio guardare al futuro. Questo spartiacque oggi storico non c'è, forse per i giovani dell'est può essere l'89, la caduta del muro di Berlino, ma almeno qui in Italia non c'è questa grande, nelle generazioni di oggi, un grande segno, un grande spartiacque storico oltre il quale guardare, spingersi, non trova? E trovo che questa sia una responsabilità nostra gravissima, quella di avere appunto privati i nostri figli, parlano dei miei figli anche, della sfrontatezza di osare immaginarsi in una prospettiva di vita come deve essere invece doverosamente ogni giovinezza, ecco, che sia foriera di qualunque tipo di opportunità. Io che sono rimasto ancora un po' così, malgrado i miei 71 anni, purtroppo sono recidivo su queste cose. Ecco, vedo che i ragazzi che vengono nei nostri uffici quando prepariamo i nostri film vengono preparati, rassegnati al peggio, cioè non vengono carichi di un'attesa contagiosa che fa sì che io dall'altra parte della scrivania in qualche modo mi senta anche responsabile di non negare loro una risposta che io vedo nel loro volto così indispensabile e così necessaria, nel fatto che loro abbiano confidato in questo appuntamento che finalmente hanno ottenuto con me o con i miei colleghi o con chiunque altro, ecco, e che cambierà loro la vita. Questo non accade, arrivano già veramente preparati al fatto che tanto qui, questo è un paese dove non c'è un prospettive, dove vanno avanti sono le persone che hanno raccomandazioni, che per ottenere qualche cosa bisogna andare a letto con qualcuno, insomma, voglio dire, si va avanti attraverso degli slogan, degli stereotipi che poi non corrispondono alla realtà. Perché poi nella realtà forse li mette anche un po' in soggezione, forse hanno un po' soggezione incontrare Pupi Avati, i Davi. Non è questo. È proprio questo, aver assorbito questo pessimismo. Sì, il mondo della comunicazione diffonde soltanto questo pessimismo. E ora dobbiamo anche capire come si collega questa sensazione, questo stato di coscienza con questa ubriachezza che sembra, stando alle cronache e ai titoli di prima pagina, sia sempre più diffusa. E invito alla pazienza anche Elisabetta Lancetti, abbiamo con noi, buongiorno Elisabetta. Buongiorno. Elisabetta Lancetti Lancellotti. È una delle protagoniste di questa discussione, perché si è appena maturata con 100 elode al liceo classico Giacomo Leopardi, noi la troviamo così bella, matura, e poi tra l'altro un esempio più che positivo. Elisabetta, tu dovrai tirare le conclusioni di tutte queste analisi sui giovani e sulla generazione alla quale tu appartieni, per capire se ti ci riconosci, se c'è qualcosa che sposi, se c'è qualcosa che invece vorresti rettificare o contestare. Anche voi siete invitati a partecipare al 349-238-6666 con i vostri sms. Noi abbiamo preso lo spunto da un'opinione, da un editoriale che si intitolava "Diamo ai giovani un'altra ebbrezza, facciamoli ubriacare, va bene", e l'autore di questo editoriale è Davide Rondoni. Buongiorno. Buongiorno a voi. Davide Rondoni, poeta e scrittore, direttore del Centro di Poesia Contemporanea dell'Università di Bologna, l'ha pubblicato su Avvenire. Ci siamo collegati con lui dalla Costa Rica. Rondoni, lei diceva: facciamoli ubriacare, ma di altro, non di pessimo alcol. Noi diamo loro, presentiamo vite spettrali come modello, noi adulti, entusiaste di niente, piegate da interessi o meschinerie. Allora è colpa degli adulti se i giovani bevono? Beh, guardi, non è tanto questione di colpa o non colpa, però credo che non sia corretto fare un discorso sui giovani come se fossero un mondo a parte che non vive in modo forte di riflesso anche di quello che respira del mondo degli adulti. A me colpiva queste notizie di questi giorni o anche di un po' di tempo fa, perché se c'è un aumento di consumo di alcol vuol dire che questi ragazzi, che non bevono evidentemente per dimenticare il passato, bevono per dimenticare il presente, perché 15 anni non deve dimenticare il passato, no? Quindi se uno beve per dimenticare il presente vuol dire che il presente non gli piace, vuol dire che il presente non lo sente affascinante, interessante, no? E allora bisogna trovare un ebbrezza di questo tipo. Un grande poeta che era Baudelaire diceva: ubriachiamoci sempre, poi diceva però di vino o di virtù o di qualche cosa che sia bello. Ecco, noi forse abbiamo, noi come adulti abbiamo la responsabilità, come diceva prima anche Pievati, forse di aver tolto un po' di cose belle che danno entusiasmo dalla vita, dalla proposta ai nostri figli, ai ragazzi di oggi, e allora questi bevono come succedeva nelle sotto le dittature, quando c'è un totalitarismo, i giovani si ubriacano perché è come se non ci fosse libertà, come se non ci fosse una proposta di libertà, perché... E senza questa proposta di libertà, senza questo entusiasmo, senza questa voglia, diceva anche Pupi Avati, questa prospettiva, possiamo riempirci di beni materiali, perché molte volte, appunto, leggendo queste notizie, il commento tipico degli adulti è: ma come? Hanno tutto, noi che siamo cresciuti nel dopoguerra abbiamo dovuto fare degli sforzi per conquistarci anche dei beni essenziali, minimi, e non avevamo queste preoccupazioni. Invece oggi si vede questa grandissima voglia di fuga da cosa? Dal benessere? No, è di fuga appunto dalla noia, cioè la fuga è da una vita che sembra non entusiasmare, e allora uno cerca nell'alcol quel momento di ebbrezza che nella vita non trova. Montale diceva che si rischia di vivere al 5%. Ecco, di fronte a una prospettiva di vita presentata molte volte dagli adulti come se la vita fosse una cosa che si vive al 5%, cioè senza entusiasmo, senza senso della grandezza, dell'avventura, eccetera, un ragazzo dice: beh, allora bevo. Allora questa ebbrezza la cerco facilmente a 2 lire in una vodka da poco. Io credo che il problema è che non si possa vivere senza ebbrezza, cioè senza in qualche modo un entusiasmo per qualche cosa. C'è chi lo chiama ideale, cioè, insomma, si può dire in tanti modi. Noi abbiamo tirato via dall'educazione dei giovani tutte le cose che hanno acceso invece i cuori dell'uomo da sempre: il problema di Dio, il problema della bellezza dell'arte, il problema della costruzione del futuro, come diceva prima Avati. Ecco, togliendo queste cose e dando ai ragazzi solamente un po' di televisione, un po' di educazione di educazione civica, qualche regola per non sporcare troppo, dopo è chiaro che poi i ragazzi questo desiderio di ebbrezza lo cercano da qualche parte. In pochi giorni quest'estate si è arrivati a 4 casi di coma etilico di malore grave. Ieri abbiamo avuto la cronaca drammatica di 2 decessi in 2 differenti rave party. Ma veramente si beve di più? E ritorniamo insieme 30 minuti dopo le 8 al microfono Irene Zerbini, con noi Pupi Avati, Davide Rondoni, un poeta e scrittore, direttore del Centro di Poesia Contemporanea all'Università di Bologna, e Elisabetta Lancellotti, che si è appena maturata con 100 e lode al liceo classico Giacomo Leopardi di San Benedetto del Tronto. E con noi anche qualcuno che studia quello che è l'andamento del consumo di alcol ormai da decenni, l'Osservatorio Permanente su Giovani e Alcol, il direttore scientifico dell'osservatorio Enrico Tempesta. E dunque, è vero che si beve di più in Italia negli ultimi anni rispetto al passato? Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Diciamo che questo bere di più è uno slogan che che non corrisponde esattamente alla realtà. Negli ultimi 30 anni l'Italia ha avuto una riduzione del consumo di alcol pro capite del più del 40%, il che significa che gli italiani nell'intera popolazione hanno imparato in qualche modo a contenere il consumo e a scegliere rispetto alla quantità la qualità del consumo di alcol. Escono da queste statistiche un pochino, e preoccupano certamente, i consumi giovanili da una parte e dall'altra il consumo nel mondo femminile. E immagino anche l'età del consumo. E l'età del consumo. Tenendo conto che questi fenomeni fino a qualche anno fa non venivano assolutamente rilevati. Quindi diciamo che questo anche... sottolineare i casi di eccesso è un po' legato a questo clima di giusto allarme, senz'altro, ma che va tenuto conto nella storia. Le ubriacature giovanili facevano parte e fanno parte del mondo giovanile, era il modo per sperimentare quell'ingresso nel mondo degli adulti che rappresentava un po' una specie di iniziazione. Un rito di iniziazione, insomma, sociale, sì. Però esatto. Adesso questo rito di iniziazione riguarda ragazzini di 12-13 anni, non certo diciottenni. Certo, e questo è l'aspetto più delicato del problema. E qui molte analisi sono state fatte, mi sembra estremamente giuste, proprio perché... è un mondo dove da una parte, e anche qui quando parliamo di giovani dobbiamo fare delle distinzioni, perché non possiamo mettere tutti insieme dai 12-13 anni fino ai 25-30, ci sono differenze sostanziali nei modelli di consumo, nel senso, nel significato di questi comportamenti. Allora, ma visto che adesso si va verso il proibizionismo sempre più diffuso anche in Italia, abbassare la sera a cinesca una certa ora, non vendere a ragazzi che non abbiano raggiunto la maggiore età, facciamo un paragone con quegli stati in cui il proibizionismo è in vigore da anni. Pensiamo agli stati anglosassoni, pensiamo alla Finlandia. Essere sinceri è fallimentare, perché la tendenza a proibire, addirittura poi è un'escalation, se pensate che gli Stati Uniti vogliono vietare il consumo delle bevande alcoliche ai giovani fino a 21 anni, il che significa che tu li mando a combattere, perché ci vanno a 18 anni, però non gli faccio bere, come se il bere fosse... guidano l'auto, votano, si arruolano. Votano e tutto insieme, cioè è un atteggiamento di totale irresponsabilizzazione del giovane in qualche modo, che poi tende a che cosa? Ad aumentare i comportamenti trasgressivi, questo l'abbiamo sempre saputo, il proibito in qualche modo attrae, no, il mondo giovanile, rappresenta forse l'alternativa a quella progettazione, a quella fantasia del futuro che avevamo alla nostra età, quando parlava Pupiavati, no? Del pensare, lo stare lì. Ma rimanendo per esempio in Europa, visto che sappiamo che il modello anglosassone proibizionismo porta a dei disastri anche sociali e collettivi che conosciamo, in Europa pensiamo per esempio alla Finlandia. La Finlandia decisamente è interessante la cosa, perché le restrizioni hanno portato in un aumento del consumo di bevande alcoliche negli ultimi anni drammatico. Prendiamo l'Inghilterra, dove da anni c'è il divieto di somministrare alcol, dove si chiudono i pub alle 11 o mezzanotte a seconda delle situazioni, dove l'accesso alle bevande alcoliche è in qualche modo regolato, senza pensare in Australia, dove si aspetta alle 6 del pomeriggio per poter entrare, certo, per consumare alcolici. Tutto questo fa parte di una cultura che per noi è totalmente estranea. È estranea perché se riprendiamo il dato della riduzione del consumo negli ultimi 20 anni, anche 30 anni diciamo, è stato fatto è stato ottenuto questo risultato senza nessuna legislazione. E come allora, dunque? Con un controllo culturale? Con un controllo culturale, con un'autoregolazione. che è stata legata a quell'evoluzione dei fenomeni sociali. Quindi anche questo momento drammatico che ci impone un'attenzione, una comprensione del fenomeno giovanile, è chiaro che è inutile andare a pensare di combatterlo con delle norme che poi io vorrei vedere verificate tra un anno o due quali sono i risultati. Quindi l'unica strada è quella della responsabilità. Pupi Avati, esatto. Lei ci crede? Pupi Avati l'abbiamo perduto durante il viaggio, stava andando a Roma. Quindi voglio spostare la domanda a Davide Rondoni, l'autore dell'articolo poi che ci ha ispirato questa riflessione. Lei crede alla via della responsabilità come controllo migliore del proibizionismo? Ma guardi, il problema è che c'è questa domanda forte di alcol da parte dei ragazzi. Questo non è dovuto al proibizionismo, esiste comunque, è questo che bisogna guardare. Poi sono d'accordo anch'io che il proibizionismo è sempre una strada poco efficace in genere, perché uno non decide di non bere perché c'è una legge, evidentemente. Credo che però il problema sia un fenomeno tutt'altro da sottovalutare o così da ridurre come se fosse una questione puramente così statistico, come era una volta. Non è come una volta, basta già per la strada, si vede che non è come una volta. Credo che appunto è un problema di tipo educativo, non di tipo coercitivo, di tipo legale o amministrativo. Bisogna puntare sulla responsabilità, però insisto, non basta puntare sulla responsabilità o sulla legge, occorre cominciare a parlare ai nostri ragazzi di quelle cose che veramente entusiasmano, di quelle cose che veramente coinvolgono. Se un ragazzo di 12-15 anni non lo si coinvolge nell'avventura umana che è dentro al problema del destino, al problema della bellezza, al problema dell'arte, al problema, chiamiamolo nei modi che vogliamo, se non gli si parla di questo, lui queste cose qui le va a cercare da un'altra parte, perché l'uomo è fatto per qualcosa di che lo inebria, qualcosa che lo inebria infinitamente. L'uomo è fatto così da sempre, lo sappiamo, basta studiare un po' di storia greca e romana, che l'uomo ha sempre avuto questo desiderio di ubriacarsi di infinito. Noi abbiamo tagliato l'infinito dalla vita della gente, soprattutto dei ragazzi, e poi ci meravigliamo che si buttino nell'alcol. Questo mi sembra un atteggiamento un po' ipocrita. Poi possiamo fare tutte le leggi che vogliamo e magari appellarci alla responsabilità, ma innanzitutto è un problema educativo prima ancora che di responsabilità. Pupi Avati, dicevamo, lei ci crede alla strada della responsabilità, che sia più efficace di quella del proibizionismo, o qualche sana legge, qualche sano divieto funzionerebbe? Ma io ripeto quello che ho detto all'inizio, secondo me al di là dei divieti, dei regolamenti, delle leggi, bisognerebbe in qualche modo confrontarci con noi stessi, farci un esame di coscienza e chiederci come mai abbiamo sottratto, abbiamo privato, abbiamo dato tutto ai nostri figli tranne che la prospettiva, tranne che un futuro, tranne che il senso dell'aspettativa, tranne che il sogno, e li abbiamo quindi privati della cosa più importante. Allora, se 10 anni fa si drogavano, oggi si ubriacano, insomma cercano dei succedanei a quello che era invece l'elemento essenziale, il brodo di cultura in cui un'adolescenza, una giovinezza deve in qualche modo crescere, svilupparsi. Ma quello che parlava prima di me, che ho riconosciuto dall'accento come mio conterraneo, Davide Rondoni. Ah, era lui, ecco bene, mi fa piacere. Bologna, siamo caduti due volte su Bologna parlando di vino oggi, sarà un caso. Senti, Elisabetta Lancellotti, abbiamo con noi una ragazza di 18 anni, pensate, una delle 12 in tutta San Benedetto, delle 12 che si è diplomata con lode. Elisabetta, tu ascoltando questo discorso sui tuoi coetanei e anche ragazzi più giovani di te, naturalmente, senza che ti metta a raccontarci della tua esperienza personale, perché non ci aspettiamo certo un outing qua in diretta, bevi, non bevi, insomma, a prescindere da questo, tu o comunque osservi, vivi, hai amici, e ti sembra sia davvero così? Cioè è stata la mancanza di prospettiva e la mancanza di futuro che spinge a bere fino all'eccesso, o è semplicemente il fatto che essendo ragazzi lo si fa? Ma entrambe le cose, soprattutto anche, come diceva, mi sembra Rondoni, anche la noia, la l'incapacità di lasciarsi colpire da qualcosa, ma anche e soprattutto la difficoltà dei giovani di proiettarsi nel futuro, In tal modo il presente diventa un assoluto da vivere con la massima intensità, e non perché questa intensità procuri gioia, ma perché promette di seppellire l'angoscia che fa la sua comparsa ogni volta che il paesaggio, per così dire, assume i contorni del deserto di senso, secondo la mia opinione. Poi personalmente ho cercato di fare mia, per così dire, un'affermazione nietzscheana che afferma la vita come mezzo di conoscenza. Con questo principio nel cuore si può non soltanto valorosamente ma anche gioiosamente vivere e gioiosamente ridere. Personalmente ho trovato quel che mi colpisce nell'imparare cose nuove. E tu l'hai trovato personalmente? Cioè tu, per esempio, ti sei laureata, ti sei diplomata con lode, sai già quello che sarà il tuo futuro, almeno prossimo? Sì. Hai delle idee chiarissime? So che vuoi studiare economia e management alla Bocconi, quindi hai già superato l'esame d'ingresso. Hai questa sorta di sentiero tracciato. Perché? Ma qual è la differenza? Immagino tu abbia anche coetanei che invece ancora si interrogano, si chiedono. Secondo te cos'è che ti ha aiutato? Ma sicuramente anche l'ambiente in cui sono cresciuta, sai, i miei genitori mi hanno sempre insegnato che bisogna sapersi porre un obiettivo e cercare di raggiungerlo con le proprie forze. E siccome sono una persona molto determinata, l'importante, cioè, secondo me, il fatto che i giovani si gettino nell'alcol, nelle droghe, è proprio l'incapacità di capire, di rendersi conto delle proprie possibilità e di trovare un obiettivo da raggiungere. E quindi, al contrario, per fortuna, ho sempre saputo cosa voler fare. Comunque... Ma tu, ci diceva Pupi Avati che anche quando vanno da lui, anche in campo cinematografico, cioè girano molto questi slogan: se non hai la raccomandazione non arrivi, se non ti aiutano non arrivi, già rassegnati. Tu hai ci credi nel fatto che si possa contare sulle proprie forze? Cioè, parlate spesso tra ragazzi e questi sono i termini della conversazione? Anche se poi spesso mi sento rispondere, ma non è vero, perché sì, bisogna essere anche bravi, ma se non è la raccomandazione è tutto inutile. Da gente della tua età, da 17-18 anni, ti senti rispondere questo? Elisabetta, grazie Elisabetta Lanciolotti, lo ricordiamo, è una delle diplomate con 100 e lode al liceo classico Giacomo Leopardi di San Benedetto del Tronto. E allora Davide Rondoni, lei ha acceso questa conversazione ha detto: una generazione che non ha trovato motivi di gusto nel reale ha tirato su figli ubriachi. Avendo forse dei giovani tirati su educazione civica, TV banale, regolette per non disturbare, che altro potevano fare se non rifugiarsi, avere questa fuga in un fondo di bottiglia? Ma come abbiamo sentito, prima di tutto non sono tutti così. Cos'è che fa la differenza tra uno e l'altro? Come diceva prima la ragazza che ha parlato in maniera molto acuta, lei ha detto subito: la differenza la fa l'ambiente in cui sono cresciuto e i genitori, cosa mi hanno detto, cosa mi hanno insegnato. Una frase che l'ha colpita, probabilmente incontrata a scuola o da una persona che lei riconosce come maestro. Cioè, la differenza la fa l'educazione che ricevi, la differenza la fa il fatto appunto che si ha intorno degli adulti o comunque delle proposte che ti fanno sentire un gusto nel reale. Non c'è bisogno di ubriacarsi per sentire il gusto della vita. Questo non significa non bere, perché tutti beviamo, perché per fortuna agli italiani piace il vino e piacerà sempre, e bere fa parte del gusto dell'esistenza. Ma buttarsi in una bottiglia vuol dire che uno non trova il gusto altrove e si butta lì, e questo credo che sia un problema. Il direttore dell'Osservatorio Permanente su Giovani e Alcol, abbiamo cercato di capire le radici di questo fenomeno, sono tra l'altro motivazioni che anche voi trovate nelle vostre analisi, e le vostre analisi partono da dati e da statistiche. E secondo queste analisi e statistiche, in Italia esiste un circuito della persuasione, cioè c'è un periodo, un momento della vita in cui si esagera e poi si rientra come culturalmente spinti nell'ambito, nella norma. Nella maggioranza dei casi gli eccessi della fase sperimentale si concludono. Dovremmo essere ottimisti dunque? due cose. La prima, quando parliamo di proibizionismo, non significa che debbano essere sottolineati certi regolamenti o certi controlli nei comportamenti collettivi. Chiedo scusa, Tempesta, ma abbiamo 30 secondi. Il primo è quello alcol e guida, per esempio. Quello non è proibizionismo, è un regolare i comportamenti. Per quanto riguarda il discorso delle prospettive, certamente molti di questi fenomeni sono fenomeni legati proprio alla condizione adolescenziale o pre-giovanile, diciamo, perché poi andando a vedere longitudinalmente questi comportamenti dopo i 25 anni rientrano. In Italia. Che cos'è che rimane? Rimane quella individualità o quella vulnerabilità individuale che è data da condizioni legate proprio alla singolarità della persona. Grazie a tutti, a Davide Rondoni, a Pupi Avati, a Elisabetta Lancelotti, a Enrico Tempesta. 349-238-6666. Ieri i talebani, con lettere telefonate ai media, hanno minacciato gli elettori nel tentativo di far fallire le presidenziali di giovedì. Una data molto importante, un documento unico a Radio 24, perché Cristina Balotelli, una giornalista di Radio 24, ha parlato con i militari in missione in Afghanistan e ha voluto approfondire il loro punto di vista sulle pattuglie, sui nemici che li attaccano, sullo scenario del dopo elezioni, sulla popolazione civile, e lo sentiremo in questo reportage da Kabul. Sentiremo il capo di Stato Maggiore della missione NATO ISAF in Afghanistan, il generale Marco Bertolini, il comandante di una pattuglia che mette in sicurezza le strade intorno a Herat. Sentiremo anche il capitano che si occupa di cooperazione civile e militare, il portavoce del contingente italiano, il maggiore Marco Amoriello, e Cristina Balotelli ha dato voce a tutti loro. I nostri militari in Afghanistan si trovano a fronteggiare sul campo una insurrezione armata. Le elezioni del 20 agosto si svolgeranno in un paese in guerra. Negli ultimi mesi sono aumentati gli attacchi della guerriglia proporzionalmente all'incremento delle attività di pattuglia. Imboscate e bombe, mortai e razzi. La NATO ha schierato circa 60.000 uomini. Il contingente italiano ha la responsabilità della regione Ovest, una delle cinque nelle quali è stato diviso l'Afghanistan. Il generale della Folgore, Marco Bertolini, è il numero 3 nella rete di comando del contingente internazionale NATO ISAF a Kabul. Gli chiediamo se servirebbero più uomini. Beh, certo, l'Afghanistan è circa il doppio dell'Italia in estensione. Non c'è dubbio che in un territorio così ampio, per di più molto compartimentato, perché qui siamo alle propaggini dell'Hindu Kush, quindi ci sono delle zone nelle quali è veramente difficile il movimento. Ci vogliono truppe, ci vogliono uomini sul terreno. Questo non sta a significare che io pensi che la NATO sia un pozzo senza fondo dal quale trarre risorse del genere. Quello che è difficile poi mantenere il controllo su questo territorio, e questo è il vero problema, mantenere il controllo anche durante la notte, anche nel corso di tutte le giornate, per dare alla popolazione la sicurezza, la tranquillità che gli viene da una presenza nostra costante. Invece quello che succede attualmente normalmente è che dopo la nostra presenza spesso di notte o in altre giornate, diciamo, tornano questi insorti. Quindi per questo motivo è importante che crescano le forze armate afghane, perché saranno loro che dovranno mantenere la presenza sul territorio. L'intero settore, diviso in quattro province, Herat, Ghor, Badghis e Farah, è sotto il comando della brigata paracadutisti Folgore, che ha come unità di manovra il 183esimo e il 187esimo reggimento. A Kabul, invece, che è la regione centro, c'è il 186esimo reggimento Folgore sotto comando regionale francese. Noi abbiamo circa 250 uomini dell'esercito che sono ormai da anni impegnati proprio per addestrare l'esercito afghano e per accompagnarlo anche in operazioni, cioè non si limitano ad addestrare ma li accompagnano in operazioni. Una attività analoga verrà svolta da circa 200 carabinieri, poi ci saranno anche delle guardie di finanza a favore della polizia, perché dobbiamo fare in modo che cresca anche la polizia. Sicuramente siamo sulla strada buona, si tratta di dargli le risorse. fra le risorse c'è anche il tempo per crescere. Ma l'obiettivo sicurezza in Afghanistan, primo produttore di oppio al mondo, non è raggiungibile in breve tempo, ci dice il generale Bertolini. Non è un obiettivo facile, non è a portata di mano, ci vuole del tempo, ci vogliono altri impegni costanti nel tempo. Sicuramente non si tratta di tempi corti, è un paese che è in guerra da 30 anni, i tempi saranno lunghi. Le forze di sicurezza afghane, circa 90.000 uomini nell'esercito e 80.000 nella polizia, sono i primi responsabili del processo di pacificazione del paese. Ma chi è il nemico in questa guerra? Maggiore Marco Amoriello, portavoce del contingente italiano ad Herat. L'insurgence, che è una parola chiaramente usata a livello ISAF, a livello NATO, è una parola che è stata scelta ed usata per raccogliere tutte le varie forme di persone che sono contro alla stabilizzazione del paese, che poi possono essere talebani, ribelli, signori della guerra, narcotrafficanti e così via, quindi in una parola sola racchiudiamo comunque in maniera sintetica tutti coloro che chiaramente hanno interessi contrari alla stabilizzazione del paese, perché chiaramente vivendo in un'area non stabile possono gestire i loro traffici qualunque si siano, mano a mano che perdono il controllo dei loro territori si spostano in altre aree. La cosa difficile è individuare dove si stanno spostando e in che quantità, perché chiaramente non è che si spostano col pullman e hanno tutti chiaramente la maglietta con scritto io sono un insorgente, quindi comunque non è semplice l'individuazione. Se passiamo all'interno di un villaggio è difficile percepire chi è insorto e chi non lo è, perché comunque è un dato di fatto che la barba e il tipo di vestiario è quello più o meno comune a tutti. Chiaramente noi come facciamo a capire chi è un insorto? È quando ci sparano addosso. In tutto in Afghanistan ci sono circa 3.000 militari italiani. I rischi che affrontano quotidianamente vanno dagli attacchi con imboscata agli IED, gli ordigni esplosivi improvvisati collocati a bordo strada e ben nascosti. Sono a rischio soprattutto le squadre che pattugliano le strade in supporto con le forze afghane. Come quella comandata dal caporal maggiore capo Vito Carlucci del 183° Reggimento Paracadutisti Folgore. Noi principalmente facciamo un'operazione di supporto all'esercito afghano per il controllo del territorio. A volte usciamo in 10 mezzi, a volte 8 mezzi, comunque usciamo un plotone intero, all'incirca 28 uomini. Sempre in collaborazione con forze afghane. Noi facciamo da supporto a loro. Ogni attività loro vengono con noi. Carlucci, 32 anni, dei quali 13 trascorsi nei Parà, si trova in Afghanistan da 4 mesi. Timori non ce ne sono da parte nostra, perché comunque il morale nostro è alto. Cioè io come comandante di squadra per i miei ragazzi che lavorano con me sono un punto di riferimento, però per avere una squadra che lavori al meglio c'è bisogno di molta amalgama e spirito di corpo. Ecco perché nel territorio nostro nazionale noi della Folgore effettuiamo tanto addestramento prima di affrontare determinate missioni. La cosa che io dico ai ragazzi, cerco di tranquillizzarli, di stare tutti tranquilli e di lavorare come facciamo ogni giorno. Tra le attività di queste squadre, formate da 8 militari, c'è il sostegno sanitario alla popolazione, in gergo MedCap, cioè medicazioni effettuate sul campo dai militari ai civili, e la consegna di aiuti umanitari alle scuole, come quaderni, coperte, cibo. Ma nel caso di un'imboscata, cosa si fa? E noi attuiamo le nostre procedure, se loro ci sparano noi reagiamo al fuoco. Innanzitutto troviamo un posto sicuro dove metterci e poi se è possibile reagiamo al fuoco e ci sganciamo. Se troviamo difficoltà a trovare un posto sicuro cerchiamo di chiedere un supporto aereo, ci arrivano degli aerei oppure degli elicotteri in supporto. Il livello di allerta è alto, soprattutto chi fa pattuglie ha l'occhio allenato ed esperto. Se c'è qualcosa che non torna, in genere viene notato. Spesso, in questo modo, ci si salva. Le truppe inoltre dispongono di tecnologia che riesce ad interdire l'innesco di bombe con telecomando. Tra le attività svolte dal nostro contingente ci sono quelle di ricostruzione, assistenza sanitaria e sostegno alla popolazione gestite dal CIMIC, acronimo per Cooperazione Civile e Militare. Manuel Solastri, 34 anni, capitano CIMIC Group South, è alla sua seconda missione in Afghanistan. Quest'anno abbiamo circa 60 progetti per un importo complessivo di 5 milioni di euro. E per essere più chiari, insomma, dare un'idea più o meno di quello che è il lavoro che svolgiamo, possiamo dire che soltanto per quest'anno costruiamo 6 nuove scuole, facciamo 4 ambulatori medici, abbiamo completato l'ospedale pediatrico di Herat, che è il più grande della regione, trivelliamo 170 pozzi e abbiamo realizzato soltanto qui nella città di Herat 18 km di acquidotto che serviranno circa 300.000 persone della popolazione della città. L'atteggiamento della gente è di grande disponibilità e di grande apertura nei nostri confronti, anche perché dopo decenni di guerra la popolazione afghana è veramente molto stanca di miserie, di tragedie e dà la consapevolezza che questa è un'occasione storica per andare verso la pace e la democrazia. In questo paese l'amicizia ha un valore, l'ospitalità ha un valore. La popolazione afghana e i collaboratori afghani con i quali io lavoro quotidianamente sono molto consapevoli di quello che ci costa essere impegnati qui e quindi sono molto riconoscenti. C'è volontà di collaborare con noi. Tuttavia non può esserci ricostruzione né aiuto alla popolazione senza che vi sia la sicurezza. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E ci fermiamo qui con 24 Mattino, autunno, politica e economia 9 in punto con il direttore Gianfranco Fabi, da Irene Zerbini. Un saluto.